figlio, queste non sono le sue mani, questo non è il suo viso, questo non è mio figlio, questo non è mio figlio. Questi pezzi di carne sparsi in una bara non fanno parte della mia storia. Mio figlio era la voce che gridava nelle piazze, era la rabbia, l'amore che voleva far crescere. Questo era mio figlio quando era vivo, quando lottava per tutti tra fascisti, mafiosi, padri, farabutti. Parlo con lui vivo, non so parlare coi morti, l'aspetto il giorno e la notte, quando si aprono le porte, entra e mi lascia il suo abbraccio. Lo chiamo nella sua stanza che studia, esce e torna la faccia nera, ma se la ride della loro miseria. Mio figlio era la voce che gridava nelle piazze, era la rabbia d'amore che voleva far crescere. Questo era mio figlio quando era vivo, lottava per tutti tra mafiosi, fascisti, padri farabutti. Questo è mio figlio, questo è il mio Peppino, uomo della Sicilia, integro uomo. Questo è mio figlio, con lui tutti coloro che lottano ogni giorno per un nuovo destino. Mio figlio era la voce che gridava nelle piazze, era la rabbia, l'amore che voleva far crescere. Questo era mio figlio quando era vivo, quando lottava per tutti tra mafiosi, fascisti, padri, farabutti.